testa. Perché mi tengono al manicomio? Io non voglio mica che mi danno la medaglia, io volevo il carcere. Il carcere è fatto degli uomini. Qui al manicomio ci devono stare scemi e i pazzi. D'accordo? Questa è un'ingiustizia sociale. Il dovere civico non lo fa nessuno di quelli che stanno occupando. Sono tutti imbroglioni. La legge se l'hanno calpestata, hanno violentato perfino il loro giuramento. Mi hanno violentato fin da piccolino e ho avuto di questi grossi problemi e sono diventato pure io pedofilo. Perdonatemi, chiedo perdono a Gesù, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, Gesù, Gesù, fai che ti ami sempre di più. Maria, Maria, Maria, apri il mio cuore, la dolcezza e l'anima mia. A noi il tuo regno, i nostri fratelli e tutti, e tutti giusti che in base con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarti insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore. Amen. Quello che tu hai detto, però tieni presente che qui c'è anche un medico. Tu questo discorso che fai? Bisogna innanzitutto cercare di dimostrare al medico di questo reparto. Uno deve dire: io non voglio stare più ad Aversa. Perché? Per quale motivo? Le piante, sì. Cerco di indovinare perché non ci vuoi stare, eh? Perché probabilmente non puoi avere delle licenze. Ma le danno le licenze perché ci sono i familiari. A me anche una, a me. Ma come fa un magistrato a mandarti a casa? Ma la legge è molto suo, è vero che fanno la legge a modo suo. Ma vediamo. Ma siamo, siamo. Ma non sono due. Che cosa possiamo fare? E come abbiamo detto? Allora dal momento che è finito dobbiamo trovare la soluzione esterna. Dobbiamo trovare la comunità. E forse questo è il nodo più cruciale del problema, perché purtroppo tutte quelle strutture intermedie previste dalla legge 180, le famose case famiglia o comunità alloggio, sono state realizzate soltanto in minima parte solo in alcune regioni pilota, per cui abbiamo una grossa fetta di internati che potrebbero essere scarcerati se funzionassero i servizi territoriali e che purtroppo siamo costretti a tenere qui di proroga in proroga, proprio perché non sapremo altrimenti dove mandarli. Come si chiama? Qui stiamo messi male tutti quanti, qui andando avanti adesso passa ci ammaliamo tutti quanti, ma pure senza vedere i farmaci, perché viviamo a... non so, sono fossicato, sono inquinato, e meno male che tutti questi inquinamenti che facciamo con queste macchine, queste cose, meno male che la natura è forte, che se non era forte si seccavano pure le piante, come tante parti che si seccano le piante. A me sto bordello non mi piace. Insieme al direttore dell'ASL Caserta 2, Franco Rotelli, abbiamo stabilito un protocollo d'intesa che prevede che tutti i soggetti che fanno parte di quell'ASL possano avere la possibilità di essere eseguiti da equip, diciamo, multidisciplinari formate sia da operatori dell'istituto sia da operatori esterni che seguono il paziente sia nel tragitto nell'istituto sia possono seguirlo come equip all'esterno dell'istituto. Questo dovrebbe facilitare un numero maggiore di dimissioni controllate. Ma ti parla barba! Se non vado là! Ho un bacio di nuovo! Tanto lo può capire! Vedi come te lo faccio leggero io? Ancora non sai una cosa! Non ti faccio male! Non ti faccio male! Non ti faccio male. È inutile a farla chiaro, si va, questa è la verità. Perché noi abbiamo la nostra sensibilità e vediamo la persona che ci sta di fronte. Vediamo la persona che è buona e la persona che è cattiva e la persona che è maligna. Non c'è bisogno di andare a scuola per capire queste cose qui. Quindi bisogna comportarsi bene. È inutile spendere tutti questi soldi. Perché per educare a noi ci vogliono le persone più educate di noi. E che facciamo? Che i lupi devono rieducare le pecore? Non è possibile. Io non so più se sono vivo o morto. Io non so più se io sono non so vivo o morto. Se sono vivo, io non so più vivo? Se sono vivo o sono morto. Io non so lo più sa. Se sono vivo o morto. Sa. Io non so più se sono vivo o morto. Io non so più se sono vivo o morto. Posso essere vivo, posso essere morto. Io non so più se sono vivo o morto. Io non so più se sono vivo o morto. Io non so più se sono vivo o morto. Morti, tutto un insieme di morti. Una caserma morta di morti. Ancora la ragazza. Dove ci vanno? Non ci manda? Ah che, dove ci manda? Non lo so. Il signore si sta venendo qua. Ma non mi ha caldo. Perché non mi stava venendo qua? Perché mi sputo in faccia, perciò l'ho messo nel giro in faccia. Si sta bene, si sta meglio mo che di prima. Evidente di comprensione? No, gli enti di contenzione se sbagli ti legano e fanno bene. E io sono stato legato e in letto 3 giorni. E perché? Perché non lo so, mi è venuto a prendere di qui dentro, in letto, e mi ha portato in palazzina militare di quale sta all'angolo e mi hanno legato in letto. Dare, portare, mangiare, dare così. Sì. Bene, si è potere per essere legato al posto loro? No, neanche un po'. E allora perché non li liberano? Avete armi automatiche, sparate sulla porta e fate le uscite. Ma a me mi vuoi bene? No, no, sì. Sì o no? Ma no. Buona. Tu aspetti, non lo senti allora? Sì, e no. Tu mangi, ti rinforzi, stai bene e ti alzi dal letto. Gigino, vai fuori, non entrare più qua. Ma vieni in bravo, è chiesto. Dove? Ma che significa oggi siamo nel 2001? Ancora un uomo deve essere legato sulle rete di forza come all'epoca dell'inquisizione di Spagna. Dove siamo? Siamo uomini civili o siamo delle bestie? Quindi se l'uomo è pericoloso, va libero con le fascette e basta. Come siete passati questi 20 anni qua? Non la sto passata bene, però la sto passata. Sono prigioniero politico, sono da tanti anni, sono compagno nazico. Come si è presentati questi 20 anni? Ah, comunque penso che io, la fine del mondo arriverà nel 4004. Come profeta penso che la fine del mondo arriverà nel 4004. Se ci siamo, ci siamo. Se non ci siamo, non ci siamo. Cosa ne pensi di Berlusconi che è andato... Ma si mangia tutti i soldi, un farabutto che mangia per i soldi, ma è giusto in Italia. Ma che si deve aggiustare, scoppierà una grossa guerra civile, scoppierà una grossa guerra civile. Ma le promesse che ha mantenuto le promette lui. No, quanto va, non le promette. Parecchie promesse ha mantenute di Berlusconi, ha detto che l'Italia la presenta bene. No, questo governo nuovo è un buon governo. Che cambierà qualche cosa. Se io come prigioniero politico, come compagno anarchico potrei dire che la formazione del governo è abbastanza seria, non ci stanno squilibri di ogni genere, non ci stanno. Penso che si presenta bene. Sì, speriamo che stiamo tutti bene, l'Italia unita. Sono 10 anni che sono qua, ma andato 2 anni voglio essere risarcito, 8 anni di sequestro di persone. Voglio essere risarcito dallo Stato. Davo fastidio al sindaco del paese. Sono più cazzo una vittima della politica proprio, che loro erano, sono così e io sono così. Allora si mettevano contro di queste cose qua. Ecco, per quello mi ritrovo qua. Ma no che sono cattivo, ho ammazzato qualcuno, questo e quell'altro. È tutto uno schifo, è stata proprio una cosa politica al paese mio. Proprio una cosa politica per internarsi dentro un manicomio o in carcere. Si sopravvive anche a questo. Ma anche tu, però domani non ti faccio le cose. Domani mattina sto io qua. Tu mi insegni o no? Sì. E allora rimaniamo così. Io domani mattina alle 9 sto qua. Parlo con la psichiatrica. E ti faccio sapere. Tu ragazzo mai capito, per un cuore di ragazzo, adesso ci io t'amo più, cos'è la vita, senza l'amore ha, e come madre lo che più rimane più. Questi sono dei ricoverati, ma è sempre un ospedale, è sempre un ospedale, però come si può vedere anche ci sono sbarre dappertutto. Con questo lo so che i reati che hanno fatto con questi ragazzi a volte sembrano orribili, però... Ho fatto ma? No. Non mi rompo il cazzo quando la vuoi vedere. Faccio il tuo dovere. È il mio dovere, sto facendo. È il mio dovere, sto facendo, non mi preoccupare. Non è il tuo dovere. È il mio. No, è il cazzo. Adesso lo liberato la mano. Vuoi mangiare adesso? Ma lo vuoi liberato la mano? Non via la mano. Vuoi mangiare o no? Non via la mano. C'è da mangiare. Sì, sì. Mi la mia, questa è la seconda volta che hai l'occasione di andartene. Non è, quelli che mi sembrano andare qua. Vuoi andare al centro? Ah no, comincia a scegliere la produzione. Non è, quelli che mi sembrano andare qua. Ma mangia, non tutta la vita di Murillo. Morale. Ma vuole che... In poche parole, se uno si sente un rivoluzionario, beh, io gli faccio fare il grande rivoluzionario. Dice, ma in questo modo incentivi patologie, disordini mentali? No. Nella mia esperienza questo non è mai successo, al contrario, mi è successo che il soggetto nella noia della ripetizione arrivasse all'autocritica. Compagni, sì. Io sono un prigioniero politico, sì. Ho subito 400 coercizioni, sì. Ma sono ancora vivo, sì. Perciò posso dirvi, tenete duro, sì. Io penso che sostituendo un dirigente sanitario di questo istituto, io penso che la cosa potrebbe cambiare, nel senso buono ma non nel senso cattivo. L'impegno realmente di un vero direttore dirigente sanitario non mi conclude. Grazie e buonasera. Perché io sono stato all'estero, ho visto come si sono comportati gli stranieri verso di me e mi hanno trattato bene, E voi gli stranieri io li rispetto in Italia, ma tutti quanti possono venire tutti in Italia, tutti volete possono venire in Italia per me. Ecco, per questo volere, mo' che ha detto, vuole andare a casa. E sta qui a soffrire come uno proprio abbandonato da Dio e da giovani. Qui ci sta gente da 20 anni, 30 anni qua dentro. Ma andate a controllare queste carte, voi non controllate niente, qui è tutto uno schifo. Qua viviamo nella monnezza, in questi sistemi che hanno creato questi politici, tutte queste leggi, tutte queste cose. Oh, a me non mi interessa niente dei politici, io voglio vivere nel bosco. No che vado nei boschi, vado a scappare dalla foresta e non ci devo stare. Sì, è vero, ho sbagliato, perché ho colpito una persona che non dovevo colpire. Io mi sono fatto 20 anni qua dentro, come un pezzo, come uno stupido. Perché sì, è vero, mi sono tagliato, ho spaccato, ma non sono stato mai pericoloso. Ho chiappato sempre siringhe, ho chiappato sempre punture. Hanno fatto le leggi, ma quale legge? C'è la legge che con la buona condotta deve andare fuori a fare i permessi. Come mai a me non mi danno nemmeno 8 ore di permesso per portare fiori a mia madre al cimitero? Questa è la civiltà del popolo italiano. Pregate, fratello, fate bene, fratello. Amen, la messa è finita, andate in pace. Ricordavo prima, professore Fortuna, che Gandhi diceva le strade le fanno quelli che camminano. Ecco, noi siamo consapevoli che stiamo facendo un tragitto che è meritevole di ripensamenti, di soffermarsi, di fare 2 passi avanti, in una specie di gioco dell'oca che poi inevitabilmente ci porterà a quello che noi vogliamo ottenere, un riconoscimento della malattia del soggetto che ha commesso un reato e un trattamento di questi soggetti che preveda non solo la contenzione o la chiusura, ma soprattutto il reinserimento attivo nelle strutture sociali che devono farsi carico di un problema grave e terribile quale quello della malattia mentale. Io credo che il direttore di questa struttura, che è persona che comunque stimo, debba preoccuparsi ogni tanto anche dei problemi del personale della polizia penitenziaria. Sì, è vero, gli utenti sono gli internati, i detenuti, ma alcune volte possiamo essere anche noi personali, per essere iniziati. Io ho visto gente assassinata 20 anni fa, assassinata completamente, gente completamente assassinata, gente che praticamente facevano le punture veleno dentro il braccio, l'hanno assassinati, perciò io dico la pena di morte esiste in Italia, esiste! Io chiedo al Presidente della Repubblica Ciampi, che sono rimasto l'ultimo, mi sono fatto 20 anni mi sono fatto, chiedo al Presidente della Repubblica, che adesso io sto calmo, sto posto, vorrei stare con la famiglia, non faccio più stupidaggini e ritornare in famiglia con i miei familiari, non fare più niente. Se mi aiutano mi potrei uscire da questo tunnel. Quei chiletti come stanno qua per riposare meglio, però quando uno è stanco di essere riposato come sono io, vorrei volare adesso, vorrei volare in alfa, se mica vengo vicino alla agenzia a prendere l'aereo, io voglio volare, voglio avere tutto freddo vicino alle mani, capito? Divin io non vorrei uscire mai più. Mi farei la croce qua. Basta, non vi dico nient'altro. Mi sei dimenticato questo! Sì, sì! No, comandante! Comandante! Comandante! Comandante! I lupi saranno sempre lupi. Di feroci assassini. Altri hanno avuto l'unica colpa di non essere compatibili con la nostra organizzazione sociale. Altri ancora manco lo sanno, forse non hanno mai saputo perché sono qua. Dove? Ad Aversa, nel più antico ospedale psichiatrico giudiziario d'Italia. La popolazione internata di questo istituto è composta in larga parte da soggetti, da persone che hanno commesso dei crimini dei più efferati, quali omicidio, violenza carnale, persone che si davano completamente all'alcol, alla sostanza stupefacente. Ma lasciami preoccupare, io ti lascio da mangiare. E tu a chi va bene? A chi vuoi bene tu? Dici la verità. I malati di mente pericolosi sono sicuramente in numero molto più limitato di quelli che in questo momento stanno all'interno di tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari d'Italia. Sono circa 1300 le persone in questo momento ricoverate e non tutte sono socialmente pericolose. Spesso la loro pericolosità sociale è data dall'assenza delle strutture che possono accoglierle all'esterno e la loro permanenza funziona in base a questo assunto. Qui dentro ci danno la droga i medici e ci fanno soffrire e ci violentano sull'essere di forza. Sì, ti riempiono di robaccia, non è medicina, è tutta droga. Tutti quanti siamo degli schiavi, dei schiavi loro, suo pure, che niente, la robaccia non c'è. È malato, non capisci niente. Quindi non ci sta un momento di ripresa, rimane sempre tanto. Non è pericoloso per sé e per gli altri, anche per sé. È un elemento abbastanza pericoloso. In qualsiasi momento può reagire senza rendersene conto. Questo è il famoso di Raoul. Cose vanno male, i detenuti, molti di loro, non parlano perché sono terrorizzati, hanno paura di non uscire più di qui, hanno paura della stecca, hanno paura che non li mandino più a fare la licenza, capito? E non parlano per questi motivi, però in questo posto qui c'è il terrore, c'è la vergogna, ancora si usa menare sui detenuti con molta violenza e poi li vanno a attaccare sui letti di forza, mi capisci? Questa è una vergogna, non deve succedere queste cose qui. C'è stato un periodo, verso i 20 anni, che ho avuto uno sbandamento del testicolo, del testa, voglio dire, no? Sono finito in galera, un anno per intenderci, né una vita né un giorno. Da lì sono andato in manicomio, dove mi hanno preso e mi hanno messo lì, invece di coercirmi, mi hanno buttato su un teatro, su un palco, molto simile a questo, grande il doppio circa, ma molto simile. E poi 18 anni fa sono tornato in galera come istruttore, e allora quello, se vogliamo, è una data. Ecco, io da 18 anni ho fatto il giro di boa e sono uscito dal mazzo criminale per fare, sempre in stessi posti, l'attore, il mattatore. Teatro del corpo, perché è lì nel corpo che noi andiamo a fare qualcosa di concreto, di reale, sia per la sopravvivenza esistenziale, perché se stavo lì a 24 ore a fumare, muli miei, ragazzi miei, ricchio. Questo è un vizio che si può proporre, non un'analisi, un'interpretazione, quale? Interpretazione può fare una persona che non ha gli strumenti in sé per comunicare, cioè un non attore. Nessuna, la disperazione nel senso del vuoto. Allora noi creiamo un involucro atto alla comunicazione e dopo lo usiamo. Questo è il mio metodo. Sono vecchio, sono 50 anni. Faccio fatica a sopportare tutto ormai. Anche questa atmosfera. E senti il personale, le guardie, gli infermieri. Nemmeno tu, gli dottori. I dottori. I dottori, gli dottori. Sono bravi. Che come ti trattano? Buono, sì. Ti danno le sigarette. Sì, venga. Beh, ma cioè, le sigarette non è quello importante. Non è quello importante, no. Cos'è importante? È stato un po' tranquillo. Ah, questo è importante. Ti lasciano tranquillo. E questo è importante. Stiamo tranquilli. Ho sentito addirittura episodi in cui lui avrebbe strappato gli occhi. Tu sei qua da 20 anni, sei la memoria storica. Vuoi dirci parola di verità? Sì, io in un episodio di Massimo mi sono trovato io personalmente che Massimo, un altro ricoverato, gli aveva strappato gli occhi. E Massimo è uno di quelli, diciamo, come tanti altri, questo episodio che lui mi strappò gli occhi a un altro ricoverato. E come infatti il medico, noi l'abbiamo raccolti, ha dovuto tutto raccogliere e mettere nella fisiologica, e sono stati mandati in ospedale per vedere se ci stava la possibilità di attaccare. Bisogna sempre averne paura, perché Massimo, ci dispiace, noi diciamo Massimo è un malato di mente, e allora non è mai stabile tenendolo di fronte cosa vuol fare. Massimo. Massimo io l'ho conosciuto quando arrivò qui all'inizio degli anni Ottanta ed era venuto perché aveva, figurati, rubato un 850. Che rubare un 850 ha significato che è entrato in questa macchina, si è fatto circa 200 metri, poi si è fermato, l'hanno acchiappato, era matto, un ragazzo che faceva il fotografo, e lo hanno portato qui dentro. Questa cosa dei cavocchi in realtà è accaduta qui dentro. E quando è accaduta, per delle dinamiche che abbiamo cercato di studiare, ma che probabilmente sono collegate col fatto che lui faceva il fotografo, l'occhio, che il papà era molto grande, se n'è andato da tempo e lui questa cosa l'ha fatto solo. Ero lì, in una cella, spiavo dagli scacchi di una cancella, cercando un raggio di sole per riscaldare le membra. Solitudine, oscurità, tanti pensieri in quella gabbia volavano via per la libertà. Chi sono? Se mi date il tempo ve lo spiego. Ah, questo era il portone d'entrata dell'ex ufficio del commissariato di polizia, dove io per la prima volta che ho avuto l'impatto con il sistema di repressione per una stronzata, veramente da 4 soldi, mi arrestarono e mi portarono per questo posto infame che all'epoca, quando fu arrestato, io sono stato colpito con un oggetto contundente. E con quello, quando ti colpiscono, veramente senti un dolore tremendo proprio. Sono stato picchiato da un poliziotto senza nessuna ragione. È ovvio che nella cultura della repressione, voglio dire, in queste strutture dove in ogni modo si dovrebbe rispettare la legalità, la stessa legalità che loro dicono di difendere, voglio dire, viene calpestati impunemente, perché la violenza usata contro di me è stata una violenza gratuita. Loro hanno cercato di nascondere la cosa, perché i misfatti non devono mai oltrepassare le mura, perché nessuno deve sapere cosa succede all'interno delle mura. Non l'avevo visto, l'azione che ho fatto io in sostanza, no, era quella di aver preso un oggetto, una casseruola in rame, no, avevamo fame, tenevamo il vizio di farci la fumata, allora avevamo bisogno della 100 lire per comprarci la sigaretta, eravamo fuggiaschi, che io non tornavo a casa, allora il mio giaciglio notturno era dove capitava, e io per questo motivo sono stato arrestato. È trattato è in quel modo, avendo subito tutta quella violenza di questo stupido poliziotto, cioè, che probabilmente, non lo so cosa gli è passato in mente in quel momento, cioè, una risposta che non sono riuscito mai a trovare, perché voglio dire, non è che io abbia fatto qualche gesto o avuto qualche reazione, no, io ero abbastanza tranquillo. No, sì, è dispiaciuto, preoccupato, perché la polizia in ogni modo fa sempre un pochettino paura, anche per chi non ha commesso nessun reato. questo posto è significativo, inteso come quando venivi arrestato e dovevano trasferirti al mandamento, la macchina ti trasportava, si fermava proprio in questo posto qua. Poi a piedi si faceva tutta la salita e si arrivava all'ingresso. Però il fatto di scendere qua, almeno a me mi sconvolgeva un pochettino emotivamente, perché sì, la gente può sapere che stai in carcere, la gente può sapere tante cose, però nel momento in cui tu scendi ammalettato da una macchina, e qui è un posto dove la gente passa, no? Vai soggetto agli sguardi indiscreti, e questa cosa ti crea imbarazzo. Guardate questo corpo tutto straziato. E mo' finalmente è riuscito a venire scappare. E mo' volesse una mano che con un gesto di solidarietà salutasse a mace le gambe. Queste fascette non ne posso più portare. Voi forse non mi capite. E sforzatevi una poco. Liberatemi a ste cazze di fascette. Dopo tanti anni sono riuscito a scappare e finalmente con questo gesto di solidarietà mi sono riuscito a liberare. Oh cazzo, mi tengo ancora le piedi attaccato. Scusatemi, ma c'è per niente legato. Ed eccomi qua, libero! Ma veramente sono libero. Io sono libero qua. Sta libertà che mi hanno sempre rubato. Mi hanno rubato la maniera di Cirillo. Eppure quando ero giù, mi hanno incarcerato. E adesso carcere infame, hanno il coraggio e mi vanno pure e mi anche psichiatrizzare. Io ero innocente, mi dovete credere, ero innocente. Ed erano anni che io protestavo, rivendicavo la mia estraneità. Ma nessuno voleva sentire, le mie grida non hanno arrivato a ricchi nessuno, ma un giudice volete sentire. Anzi, mi denunziavo pure, per oltraggio alla magistratura. E mette fa 4 mesi di carcere. Però questo periodo così infame, e mo vi dico una cosa, a me mi avevano arrestato per rapina e sequestro di persona. Non vi spaventate, a già fare una mano da qui. Non ce ne facevo più. Scusate, ma potete sentire un pallone? O volete fare un sorso, lo vuoi fare? No. C'è qualcuno che vuole fare un sorso? Nessuno vuole fare un sorso. Ma voi siete pieni di pregiudizi. Ma vi rendete conto, voi non venite neppure la facoltà di bere vicino a questo pappavallo. Ma io sto venire a casa da Pasulati. Qualcuno è stato sopra di noi, qualcuno che ci vuole dare qualche indicazione, non bevete vicino a papà, e figuratevi, si parla a mia pisticatrice. E poi per così niente, ti viene sto pregiudizio. E la faccia la ripeta. La faccia vostra che non è di dolore. Ma la faccia sta vetri perché va a raccontare sta storia. 2 anni, 3 mesi e 18 giorni di carcere. Mi hanno fatto girare tutti i carceri d'Italia. E mi mandano pure un maglione. E io che chiedevo? Rivendicavo la mia libertà. Rifiutavo l'abuso, la violenza che mi stavano facendo. Mi hanno trasferito a destra e a sinistra. Sono stato pure a San Gimignano, a Capicini, a Perugia. a Bari, a Milano. Ma mi hanno fatto già un po' per le carceri. E a Rosp, per ricompensarmi, mi mandarono a un manicomio. Mi bracarono e mi portarono là. E un manicomio mai da credere. È una cosa orrenda. Appena arrivato, ti attaccano un po' a sto cazzo di Rete Forza. Rete Forza, spedica niente. È una struttura in pelle. Fissata a terra, coppi c'è stato un matalazzo con un buco in mezzo. E tu a nulla, che fascetta ai posti alle caviglie. Stai stessi là per giorni e giorni interi. Quale organizzazione c'è stata questa psichiatria? Nessuna. Sono tutte frasi, sono tutte formalità. È un modo per salvarsi la faccia. Oggi siamo più democratici, ma non sta la democrazia. Dove sta la democrazia? Qui c'è un fascismo che non è più quello col manganello, con la purga. Oggi c'è un fascismo più sottile che riesce a sconvolgere, se no, anche la vostra intimità. Voi avete dimostrato che manda una peppa di vino a cappicini mezzo fa. Perché qualcuno ha stabilito che questo pappagallo serve soltanto per fare la pipì. Io invece dico che questo è un contenitore dove io posso fare la pipì, però posso usarlo pure per bere. Guardate che bella forma. Guardate com'è bello. Però ci bevo ancora e voi nessuno è avuto un coraggio lo fa. No, se c'è stata la carne, ma vedi la cosa.